Last Minute, agenda degli appuntamenti e contenitore culturale di Radio Città Fujiko. Dopo il GR di Radio Popolare, 7:48 minuti, si torna in studio in diretta con il Breakfast Club, la prima colazione in diretta. Oggi un last minute particolare, in quanto da anticipazione, e così sarà anche per la giornata di domani, a due rassegne che andranno in partenza per giovedì, domani 11 luglio, ma che avranno estensione nel tempo e ufficialmente inserite nella rubrica In Scena di venerdì. Quindi allo stesso modo, sia per oggi che per domani, scusate, daremo il via con una piccola clip per quanto riguarda la partenza di questi due festival, queste due kermesse, una appunto che vede il last minute di oggi, che sarà alle Serre dei Giardini Margherita, sarà dall'11, quindi da domani, fino a domenica 14. La versione estesa di tutto ciò sarà venerdì per la rubrica In Scena, però giustamente iniziando domani vogliamo almeno portarne un contenuto che dia il via per quanto riguarda la diffusione di Plurali Maschili, un festival di genere dall'11 al 14 luglio 2024 alle Serre, la prima edizione di un festival di genere al maschile. 4 giorni di talk, workshop ed eventi per parlare di corpo, cura, lavoro, sessualità, violenza di genere e femminismi. Obiettivo del festival è partire proprio dagli uomini e coinvolgerli su argomenti che li riguardano direttamente, per fare in modo che anche loro salgano a bordo dell'evoluzione in corso, proponendo una riflessione allargata sulla decostruzione della mascolinità egemone che prende il via da un punto di vista maschile, anche perché ricordiamo che questo suprematismo macista fa male alla mascolinità, fa male all'uomo, come del resto fa male a tutta la società, come ben sappiamo e come ben troviamo quotidianamente motivo di portare tutto ciò all'attenzione. E quindi grazie a chi ha avuto un motivo di approfondimento, che non è unicamente certo il filo conduttore, anche i motivi di festival, di festa, saranno con questa concentrazione, ma quello che vede Plurali Maschili in un festival di genere in partenza ci viene raccontato in maniera sintetica, poi come ho detto e ribadisco, per venerdì che sarà il 12 avremo l'approfondimento per tutte le serate. Lui è Claudio Nader dell'Osservatorio Maschile, che appunto dopo questa presentazione che ho dato io, che sarà approfondita, ci racconta quello che sarà invece nella giornata dell'11, partenza ufficiale per quanto riguarda Plurali Maschili. Allora, si comincia giovedì 11 luglio, ci sarà nel pomeriggio un workshop dedicato al mondo dell'educazione per insegnanti, e poi la sera ci sarà un talk con Emmanuel Castro e Francesca Cavallo, e poi avremo la proiezione di Orlando di Paul Preciado, e sarà quella la prima, neanche la prima giornata, la prima serata fondamentalmente, che apre tutto. E poi i giorni successivi, quindi venerdì, sabato, domenica, è dall'11 al 14 luglio, avremo invece vari talk, parleremo di femminismi, di corpo maschile, di sessualità, parleremo del lavoro di cura, parleremo del lavoro proprio, quindi del rapporto tra questioni di genere e mondo del lavoro, parleremo di tante cose, e poi ci saranno un po' di workshop, presentazioni di libri, e poi appunto un DJ set. Sabato sera, se qualcuno verrà, ci sarà un DJ set, facciamo un po' di... è la parte proprio più fest della parola fest. La conferenza stampa, già ovviamente in tempo reale l'articolo sul nostro sito www.radiocittafujiko.it. Nel last minute di oggi questa pillola di anticipazione, venerdì la presentazione estesa. Claudio Nader dell'Osservatorio Maschile, avremo anche la voce di Massimo Tiburli Marini per Kilowatt nell'organizzazione della kermessa alle serre dei Giardini dal 11 al 14 luglio. Sì, i temi sono diversi, il tema è importante, ce n'è assolutamente un indispensabile bisogno di questi contenuti, con uno sguardo che appunto, oltre che essere dialogico, è anche concreto. Gli appuntamenti sono diversi: alle ore 16 il workshop per la giornata di domani, che fare, con che fare, un workshop per insegnanti e personale educativo che lavora con adolescenza a cura di educare alle differenze, diverse le partecipazioni. Alle ore 19 il talk Crescere maschi, esplorare l'immaginario maschile e il modo in cui influenza la crescita degli uomini. Modera l'osservatorio maschile con Francesca Cavallo e Immanuel Casto, come già ha anticipato Massimo nella sintetica presentazione di poc'anzi. Alle 21 la proiezione di Orlando, My Biography Politique di Presiado in collaborazione con Mubi, introduce Andrea Ruggeri. Per intero è consultabile sul sito delle Serre dei Giardini Margherita e anche sulle piattaforme di diffusione come i social legati a Kilowatt e Osservatorio Maschile. Con il contributo di Emil Banca sarà dall'11 al 14 luglio un festival di genere plurali maschili. La partenza è per l'11, di solito queste kermesse, questi motivi di incontro vengono inseriti all'interno della rubrica In Scena, che è il venerdì, però essendo in partenza il giovedì, cioè domani, e l'importanza, ricordo l'articolo sul nostro sito che potete leggere, sito da consultare non solo per quanto riguarda musica, attualità, politica, ma tutto ciò, www.radiocittafugico.it, e quindi è difficile che io dia diffusione online, ma in questo caso ne sono ben contento di poterlo fare grazie al lavoro del nostro direttore e anche di Anna Cesari per la collaborazione con tutto ciò che verrà diffuso dal nostro sito www.radiocittafugico.it. Come ho detto, venerdì ci sarà poi la parte estesa, quindi grazie a Massimo Tiburli Marini di Kilowatt, Claudio Nader di Osservatorio Maschile, che ritroveremo nella rubrica In Scena. Detto ciò, ricordo che questa sera, infatti il mix è arrivato puntuale, tra i Kyoto Jazz Massive e i Soul Sonics, ci sarà l'open console per la serata Comini Express curata da Binario 69. La parte estiva è in città ed è in via Fioravanti 68. Vi aspetto tutte e tutti, in quanto una equipe di DJ che da me organizzata, insieme ci organizziamo, poi si può dire, avrà modo di proporre selezioni musicali variegate tra elettro, jazz, funky, soul, acid jazz, rare groove, rigorosamente in vinile. Vi aspetto quindi questa sera dalle 18 alle 21 circa. Anche l'orario è particolarmente azzeccato, così per chi si alza alle 4 e mezza di mattina può andare a letto a un orario decente. Portate i vostri vinili anche solo per conoscenza, anche per partecipare ovviamente, anche se è capitato, ma io non ho mai fatto il DJ. Beh, abbiamo a disposizione la possibilità di essere DJ e quindi perché non approfittarne? Bella idea con Mini Express questa sera, vi invito con i vostri vinili a portare playlist nella playlist ulteriormente già aggiunta dall'equipe di DJ che io mi sono permesso di battezzare New Jastanova, dal titolo appunto di un collettivo di DJ tedeschi che hanno avuto questa idea ben prima di me, però... Non mi accuseranno di plagio, almeno penso. Intanto il nostro last minute termina qui, pubblicità e poi voltiamo pagina. E a tale proposito 333-180-9494 per avere i due volumi. Beh, lo capiremo poi da Silvia Albertazzi se mette in palio il lavoro da lei presentato. Io il mio, grazie a Libreria Ubic di Via Nerio 27, lo metterò a disposizione previo quiz alle ascoltatrici, agli ascoltatori del Voltiamo Pagina. Tra poco!